il nome, diciamo, già è abbastanza esplicito, ecco, si chiama Museo della Cultura Italiana, è, in poche parole, è una sorta di museo del Made in Italy. L'intento di chi lo sta costruendo e realizzando, che è comunque un'impresa privata, una holding privata, è la proprietaria della società di energia Illumia, l'intento è realizzare appunto un luogo, proprio cito, un luogo dove i visitatori possono fare esperienza della civiltà italiana. Questo già comunque come definizione lascia molte riflessioni e comunque anche interpretazioni, cioè che cos'è la civiltà italiana, no? Anche la questione dell'italianità è un posto dove i ragazzi, questo si legge nel comunicato, possano andare e imparare qual è il genio italiano e così anche i turisti, chiaramente. Però sono tutte questioni che sono molto delicate. Cioè, l'italianità nel 2024 ovviamente è un concetto molto difficile da definire. In questo discorso, in questa riflessione, c'entra anche il luogo, che è il quartiere più multietnico di Bologna. Tra l'altro, esatto, ma questo è solo, cioè, la questione ovviamente della mixité, per me che piace tanto oggi, è solo una delle questioni. Cioè, un'altra domanda che mi sono fatto è, cioè, l'italianità è fatta solo di cose buone o anche di cose cattive? L'italiano nel mondo sappiamo che comunque non è soltanto, no, quello che ci raccontiamo noi a casa nostra. È chiaro che ovviamente il museo sarà una sorta di grande spot a tutte le cose migliori dell'italianità, come lo vogliono mettere. Diciamo, sono un po' concetti che vedremmo vicini, no, a un certo lato politico, anche per come stanno andando le cose. Abbiamo anche un ministero del Made in Italy. La cosa che stupisce un po' è che dentro, diciamo, la gestione di una fondazione che verrà appositamente creata per gestire il museo, ci saranno anche la regione, il comune di Bologna e il ministero. Quindi sarà una sorta di gestione pubblica-privata. Ancora non ci sono dettagli su come sarà gestita, quali saranno i fondi a cui attingerà, se il comune e la regione metteranno soldi, ministero. Questo ancora non si sa. Però sono lì, hanno firmato un protocollo d'intesa, quindi da qui nascevano un po' le mie domande. Ecco. In realtà il museo è parte di un'operazione urbanistica, diciamo così, più ampia, che prevede anche altre cose. Sì, non sarà solo un museo. Il presidente di Tremaggi Holding ha comunque citato come modello quello della Fondazione Prada, quindi sarà un luogo dove ci saranno ristoranti, parcheggi, perché appunto si aspettano 1.000-2.000 visitatori al giorno, quindi insomma un grande afflusso di persone. Trovandosi poi davanti alla stazione dell'alta velocità, alla navetta del People Mover, loro chiaramente si aspettano di attrarre anche moltissimi turisti, ecco. Sul Corriere addirittura ho letto hotel, ecco, però questa, diciamo che bisogna capire se ci sarà un hotel. Nel comunicato non c'era scritto, non so dove hanno preso questa informazione. Comunque sì, ci sono una serie di servizi accessori che chiaramente lasciano un po' il progetto museale in una piccola percentuale dell'intero, poi del complesso delle idee che sono attorno a questa grande operazione. Chiaramente passa come un'operazione culturale, però è chiaro che per rientrare dell'investimento, l'investitore privato ha bisogno di generare un po' di entrate, e se non ce la fanno i biglietti da soli, c'è bisogno di qualcos'altro. Non c'è il rischio che la cultura venga utilizzata un po' come pretesto per un business, un po' come è stato il cibo per fico, che tu nel tuo articolo citi, diciamo così, un po' indirettamente? Beh sì, assolutamente, cioè negli ultimi anni soprattutto abbiamo comunque imparato a guardare con un occhio attento, no, ad alcune etichette. Soprattutto la cultura è stata spesso utilizzata come booster, alcuni lo chiamano, no, per spingere un po' alcune operazioni immobiliari. Chiaramente se nel breve periodo uno pensa allo sbigliettamento o alla questione dei ristoranti, alla gente che ci va, parcheggia, insomma tutto quel giro di soldi là, nel lungo periodo in un luogo come la Bolognina, poi, che è già investito da diversi cambiamenti, diverse trasformazioni, dove già comunque insistono alcuni interessi immobiliari, dove ci saranno due altri musei, ricordiamolo, il Museo delle Case Popolari, il Polo della Cultura Democratica, quindi diciamo un luogo che sta cambiando fortemente. Io credo che sia anche legittimo da parte di un proprietario privato sperare che quell'area lì un giorno cresca di valore, quindi diciamo i loro terreni, le loro cubature acquisiscono valore immobiliare, ecco, quindi però la cultura in questo ha un ruolo importante, quindi bisogna stare molto attenti, e per questo appunto io mi chiedevo come mai il comune, la regione e il ministero avessero scelto di entrare a far parte di questa fondazione che ancora, insomma, deve essere creata, e prima ancora di sapere poi quale sarà il valore reale, no, del progetto culturale, perché sulla carta chiaramente le cose sono molto belle, ma poi effettivamente come sarà? Pico un po', ricordo un po' Pico, perché all'inizio Pico venne lanciato, lo ricordiamo tutti, come una cosa eccezionale, e sappiamo che fine ha fatto, ecco.